Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili italiani e stranieri. Questa mattina voglio cominciare con un argomento particolarmente gradevole, l'ho trovato su 24, 24 è il mensile del Sole 24 Ore, lo trovate in edicola con il nostro quotidiano, è uscito venerdì scorso, quindi fresco di stampa, come si dice. Questo mese, 24, che usa sempre individuare un tema ricorrente nelle sue pagine, ha scelto il tema delle regole. Però le regole si declinano in tanti modi e ad esempio sono cambiate le regole, questo segnala 24, per fare una dichiarazione d'amore. Allora, come si facevano una volta le dichiarazioni d'amore e come invece si fanno ora? Questo viene riassunto da Laila Bonazzi in due divertenti, molto divertenti pagine intitolate Mia Soave Cecilia TV TTB e poi segue il punto e virgola, il trattino e la parentesi, cioè l'emoticon che sta a indicare l'occhiolino, lo strizzare l'occhiolino. Spiegazione di queste due pagine dalla missiva solenne in cui si chiedeva in sposa una fanciulla nel 400 fino alla dichiarazione su Facebook 600 anni dopo. Le formule della comunicazione tra innamorati sono diventate irriconoscibili. La domanda è: sarà vera evoluzione? Non lo sappiamo, non sappiamo rispondere, però vi posso segnalare com'è questo passaggio temporale che risulta effettivamente, visto così tutto insieme, molto divertente. C'è una lettera manoscritta vergata da tal Silvio Maggiotti Alderani dall'11 ottobre del 1797, molto ispirata nonché molto lunga, comincia: Divina Maria Teresa, sì divina, quantunque perfida nel negarvi a me con lo sguardo o la parola. Ella non t'ama e seppur volesse amarti non può, ha vergato al fin su consumata carta vostro fratello. Insomma, questo Silvio purtroppo è stato rifiutato dalla sua divina e adorata Maria Teresa, prosegue su questo tenore appunto decisamente verboso, insomma per una bella colonna di pagina di 24. Se veniamo più ai giorni nostri, le comunicazioni diventano via via più brevi. C'è un telegramma spedito dal fronte della Prima Guerra Mondiale: cara Rosa, stop, ieri il Lucio si fece rimandare a casa con licenza, stop, sospetto ottenuta con inganno, stop, prego di non cedere alle sue lusinghe, stop. Quindi l'innamorato che si fa vivo pregando appunto l'amata di non cedere alle lusinghe di un rivale. C'è una telefonata datata 1952 in cui due innamorati si mettono d'accordo per una fuga che li porti a celebrare il matrimonio. E poi, venendo più vicino a noi, come non citare l'esempio della canzone alla radio, un modo di dichiararsi abbastanza comune, ad esempio con la nascita delle prime radio private negli anni 70. E qui si viene riportata una dichiarazione: per fortuna ci siamo noi di Rock Radio FM in questa fredda mattina di ottobre per dedicare a Marina una canzone dal suo Matteo. Buon anniversario da Matteo sulle note dell'ultima hit dei Pink Floyd, che era poi Wish You Were Here. Quindi questo vi aiuta anche a datare nel tempo questa dichiarazione fatta tramite un disc jockey. Sono arrivati poi gli SMS, ce n'è qua un esempio del 2001. Mi spiace non riuscire a rendervi chiaramente con la sola voce anche la modalità di scrittura, comunque il senso è più o meno: ciao Ele, grz x bella serata, che sta grazie per la bella serata, nn so come dirtelo, 6 con numero 6, fantastica, spero, che però è scritto SXO, quindi XO, vederti presto, che bello il film, no col K ovviamente, comunque dove sei ora, tutto bene il ritorno, anche questo è, e poi naturalmente si conclude con la formula di rito TVTTB, cioè ti voglio tantissimo bene, questo almeno dovrebbe essere la corretta traduzione di queste iniziali. Per finire, ma ci sono altri esempi poi che potete trovare su 24, per finire con questa dichiarazione messa su Facebook da Luca. Luca dice: Non resisto, scrive sulla sua pagina di Facebook, non resisto a dirtelo di persona oggi pomeriggio, Giulia. Voglio sposarti. E poi naturalmente c'è le possibilità che si possono fare per commentare questa dichiarazione di Luca su Facebook. Mi piace, commenta, vedi l'amicizia, vedi i dettagli, eccetera. E tra queste possibilità ci informano che a Giulia piace questo elemento, quindi sembrerebbe un sì. E allora, sembrerebbe un sì, abbiamo giocato un po', ma d'altra parte abbiamo giocato anche perché ci informa Focus nell'ultimo numero in edicola, il numero di marzo di questo mensile, che sempre più la vita assomiglia a un gioco. In che senso? Nel senso che abbiamo a disposizione sempre più gadget, sempre più tecnologie che ci consentono in qualche modo di trasformare in punteggio anche i nostri comportamenti più banali. Spesso questi gadget, questi accorgimenti tecnologici servono a migliorare certe abitudini, per insegnare ai bambini a lavarsi i denti impiegandoci il tempo che ci si deve impiegare e non i 2-3 secondi scarsi che magari potrebbero essere portati a utilizzare. Questa tendenza al gioco che pervade un po' la nostra vita e che però serve poi a motivarci viene appunto analizzata nelle pagine di Focus con degli esempi magari un po' futuribili. Ad esempio, ci svegliamo al mattino e appare mentre ci facciamo la barba una scritta colorata e lampeggiante al suono della marcia trionfale dell'Aida che ci dice: hai vinto 2500 punti e un viaggio in Costa Rica perché nell'ultimo mese hai usato l'auto meno di tutti gli altri abitanti del quartiere. Ecco, questo è un modo in cui possiamo appunto entrare in relazione con dei comportamenti virtuosi, usare di meno l'automobile e magari poi giocare tutti insieme e vedere chi riesce a fare il meglio. Si spiega che già oggi con smartphone, questi telefoni di ultima generazione, telefoni cellulari di ultima generazione, le videocamere, i sensori, naturalmente i localizzatori satellitari, naturalmente internet, il confine tra i videogiochi e la realtà si fa sempre più sfumato. Per ricordarsi di fare un regalo di compleanno, per pagare il bollo del motorino, insomma questo tipo di adempimenti, di ricordi, di cose da fare, fa ad esempio fare carriera in un mondo virtuale che si chiama Epic Win, che è un gioco da telefonino. In realtà è un'agenda, è una normalissima agenda che però se viene rispettata, cioè se si mettono gli impegni e poi vengono rispettati, questo consente di guadagnare dei punti, quindi chi è più ligio ai propri impegni poi anche fa più carriera, va più avanti in questo gioco. Poi ci sono appunto, come vi dicevo, i giochi educativi, c'è dei dispositivi elettronici che se vengono tenuti in tasca registrano l'attività fisica e premiano i più attivi con dei punti che poi possono essere però convertiti in sconti, ad esempio sui piani di assicurazione sanitaria. Nel prossimo futuro, tra l'altro, persino una cosa così innocua, consueta, come i bicchierini da caffè che troviamo nelle macchinette automatiche, potrebbero contenere un dispositivo radio che li identifica e quindi potrebbero capire se sono stati gettati in un bidone per la raccolta differenziata, come bisogna fare, oppure no. E chiaramente chi li getta nel posto giusto guadagna dei punti in questi particolari giochi e chi invece non li getta nel posto giusto non guadagna questi punti e quindi rimane indietro. Insomma, una dimensione di gioco che, se ci pensate, è anche molto presente in talune applicazioni che so sportive. Ci sono delle applicazioni che consentono di verificare per quanti chilometri si è corso, come si è migliorata, come sono migliorate le proprie prestazioni appunto di corsa o sportive o sciistiche o dello sport che preferite, e in questo modo tutto il proprio stile di vita può essere ricondotto in qualche modo a una dimensione di gioco, appunto attribuendo dei punti. Tutto questo su Focus di questo mese. Abbiamo un minuto scarso prima di fermarci per le informazioni sul traffico. Allora io comincio ad anticiparvi una cosa di cui parleremo poi nella seconda parte. Questa notte c'è la notte degli Oscar, vengono assegnati gli Oscar. Lo ricorda ad esempio Sorrisi e Canzoni TV, la trasmissione della notte degli Oscar comincia appunto alle 23:50, sarà collegato Sky Cinema. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi dicevo prima della interruzione per le informazioni sul traffico che questa notte è la notte degli Oscar. Su Donna Moderna c'è una bella intervista a Antonella Cannarozzi, che è l'unica italiana candidata all'Oscar. È la costumista di un film, del film che si chiama Io sono l'amore di Luca Guadagnino, e potrebbe effettivamente vincere. Noi ce l'auguriamo, lo sapremo naturalmente questa notte. Mariella Boerci l'ha intervistata e ne emerge un po' il ritratto di questa bravissima costumista che appunto potrebbe arrivare questa sera al traguardo degli Oscar. Dice più dell'emozione che è pronta a tenere a bada con i fiori di Bach Antonella Cannarozzi, unica italiana candidata all'Oscar 2011 per i costumi del film Io sono l'amore, film di Luca Guadagnino, teme che a tradirla siano i tacchi altissimi, dice lei, con cui si appresta a calpestare il red carpet, il tappeto rosso del Kodak Theater, il posto a Los Angeles appunto dove si assegnano gli Oscar. Preferirei, dice, rimanere seduta a godermi lo spettacolo, afferma poco convinta. Questa candidatura all'Oscar Cannarozzi non se l'aspettava proprio per un piccolo film italiano, dice lei, girato con un budget ridotto e ignorato dalla nostra critica, nonostante la presenza di grandi attori e grandi attrici, ad esempio c'è Tilda Swinton. Però alla vigilia della partenza comincia a crederci, pur essendo l'unica candidata in corsa con un film che è in costumi contemporanei. Temo, dice, di essere io la vincitrice. Naturalmente il temo viene interrotto subito da Mariella Boerci e dice sì, no, è solo una sensazione, o forse sto vivendo davvero un sogno americano, perché le mie concorrenti sono tutte straordinarie e a differenza mia sono tutte plurinominate agli Oscar, quindi la sola idea di sedermi in mezzo a loro e partecipare a questa grande festa del cinema mi fa sentire tanto Alice nel paese delle meraviglie. Come ha cominciato a fare questo lavoro è un po' figlia d'arte, perché come lei stessa spiega suo padre era un grande sarto, quindi dice sono nata e cresciuta in mezzo alle pezze, a 3 anni giocavo con i rimasugli dei tessuti cercando inutilmente peraltro di fare vestiti per le bambole che invece poi tagliavano e cucivano per me le sarte che lavoravano con papà, il quale oltre alla passione per il suo lavoro nutriva anche la passione per il cinema, quindi me l'ha trasmessa, mi ha portato a vedere tutti i film con lui e io poi giovanissima ho lasciato Taranto per frequentare l'Accademia di Belle Arti, prima a Firenze e poi a Milano, dove mi sono diplomata. Quindi ha studiato poi costume per 4 anni e ha cominciato la sua gavetta. La candidatura, le dicono, porta spesso offerte anche da Hollywood, lei si schermisce ovviamente, dice beh vedremo, certo è importante, io non immaginavo un tale interesse, mi arrivano decine di mail in questo momento dall'America, richieste di interviste e domande e insomma sta diventando quasi un lavoraccio rispondere a tutti in inglese. Vedremo questa notte come andrà a finire. A proposito di Oscar, anche Vanity Fair si occupa della materia, per così dire, ma con un taglio più inatteso, frasi da Oscar, frasi anche strane, inconsuete da Oscar. Come sapete, spesso quando poi gli attori, i registi vengono premiati, magari si buttano in discorsi un po' eccentrici, peraltro, ma, oppure consoni col loro personaggio. Fece epoca nel 1973 il fatto che Marlon Brando non si presentasse a ritirare l'Oscar, mandò Sakin, detta in indiano piccola piuma, che ritirò l'Oscar dicendo purtroppo Marlon non può accettare questo generoso premio e le ragioni sono il trattamento riservato oggi agli indiani americani dall'industria cinematografica. Questo fu il discorso fatto pronunciare appunto da Marlon Brando. Jack Nicholson nel 76, ricevendo l'Oscar, disse bene, credo che questo fatto di avermi assegnato l'Oscar provi che nella casa ci sono tanti svitati quanto ce ne sono altrove. Il nostro Roberto Benigni, quando fu premiato, era il 1999, per La vita è bella, si lanciò in uno dei suoi monologhi dicendo io vorrei essere come Giove, rapirvi tutti, sdraiarmi nel firmamento, fare l'amore con tutti voi. Questa fu la dichiarazione un po' sopra le righe appunto di Benigni, ma non inconsueta, come dimostra questa raccolta di Alessandra D'Angiò di frasi appunto da Oscar che trovate su Vanity Fair di questa settimana. E restiamo su Vanity Fair tornando a un argomento di cui parlavamo in precedenza, il gioco. Ma questa volta non parliamo di gioco in qualche modo innocuo, perché parliamo di gioco d'azzardo. Pierluigi Contucci, che è un docente di fisica matematica a Bologna, spiega che noi giochiamo sempre di più, ma che questo comportamento appunto di noi italiani di giocare sempre di più ai giochi d'azzardo, dal gratta e vinci alle slot machine eccetera, non è molto razionale. Ecco, cerca di dircelo appunto in una pagina di Vanity Fair. Io ve ne leggo qualche passaggio. Innanzitutto bisogna sapere che nel 2009 abbiamo speso in lotterie e altri giochi 54 miliardi di euro. Nel 2010 questa cifra, che già era assolutamente rispettabile, è salita a 60 miliardi di euro. Sono, spiega lui stesso, cifre da capogiro pari a più del doppio di una manovra finanziaria e meritano alcune riflessioni. La prima, e mi pare l'ammonimento più importante, è che i giochi d'azzardo non sono equi, perché è equa la ruota della fortuna, in cui ci sono 100 numeri, si gioca con un euro, se ne vincono 100. Questo è un gioco, spiega lui, equo. Le lotterie sono giochi invece in cui il biglietto è molto caro rispetto a una irrisoria probabilità di vincere. Il banco vince sempre. Voi sapete, spesso si confuta questo argomento dicendo vabbè, comunque qualcuno vince, perché non dovrei essere io. Ecco, è bene sapere che però che le probabilità sono molto molto basse. Perché allora tante persone spendono tanto in giochi? Perché pagano, si dice, l'acquisto dell'emozione del sogno. Però questo non spiega tutto. Le scienze cognitive, continua Contucci, misurano sperimentalmente alcuni che sono errori sistematici della nostra intuizione, cioè, detto con parole molto piane, il fatto che ci sbagliamo nel percepire una certa situazione. Noi sovrastimiamo delle probabilità anche molto piccole. Abbiamo una possibilità su un miliardo di vincere, ma questa possibilità non la percepiamo come così diversa da una possibilità su mille, e chiaramente invece la differenza c'è. Inoltre, la propensione a rischiare diventa tanto più grande quanto più ci si sente in condizioni di difetto rispetto alla media o rispetto alle proprie aspettative. Che significa? Lo spiega lo stesso Contucci. Si comincia a giocare sognando una ricchezza erroneamente percepita come accessibile. Quando si inizia a perdere si accetta poi un rischio sempre più grande, e quindi si entra in una sorta di spirale in cui più si gioca e più si perde, e più si perde più si è portati a rischiare. Poi ci sono altri errori dell'intuito, appunto il fatto di puntare sui numeri ritardatari. Gli statistici, come si sa ormai perché ce lo ripetono ogni volta che il montepremi del Superenalotto sale, gli statistici ammoniscono che il numero ritardatario non dà nessuna probabilità poi di uscire prima di un altro numero che magari è appena uscito. Però tant'è, molti di noi amano puntare su questo tipo di ricorrenze. Non è inutile notare, e lo segnala Contucci proprio nel finale del suo articolo su Vanity Fair, perché a pari libertà un francese gioca circa un terzo della cifra che viene giocata da un italiano. Lui azzarda una spiegazione, dice una spiegazione che la cultura scientifica in Francia ha una diffusione sociale più capillare, quindi tutti sono naturalmente tentati dai giochi, ma il pensiero razionale fa capire che quel sogno costa troppo, quindi noi saremmo un po' meno preparati e un po' meno razionali. Questa la risposta che azzarda, appunto parlando di giochi d'azzardo, Pierluigi Contucci su Vanity Fair. Con questa segnalazione si conclude la nostra puntata di Magazine 24. Grazie come sempre ad Anita Panizza, che mi ha aiutato a prepararla, e grazie naturalmente a Carmelo Lauricella, che questa mattina mi ha aiutato in regia. Se volete risentire questa puntata, se volete informazioni su Radio 24, sui nostri programmi, vi rimando al nostro sito www.radio24.it. Buona domenica a tutti.